fisica quantistica e le aragoste fritte, filosofia sofistica, motivazione e fitness, le spese a fine mese, parlare un po' l'inglese, la samba nelle chiese, non fede, no pretese. È nato un nuovo mondo eppure sono a lutto, nell'era dell'acquario mica mi ci tuffo. Si stava meglio prima di come che stai, lavoro tutto il giorno a testa. È una rivoluzione su YouTube, un video apocalisse, per imparare poco o niente, metti caso mai finisse. Questo sangue d'Arpignano, scocciolato sul divano, Gesù Cristo fermo con le mani in mano. Io sono il mio pagato a mano, missionario musulmano, eschimese africano, San Francesco pure no. Un prosecco San Giovese, Padre Pio, Harry Potter e anche Dio, ma sono solo io. Sono solo io. Ma dimmi tu chi sono, ma sta bene tutto. Un ladro, gentiluomo, genio, farabutto. Che bella ad ogni modo, ognuno come fa. Che solamente un gioco, mica il Santo Graal. Ma che futuro nel futuro. Un po' d'acqua santa pranzo e cena in pitole in un blister. E il mio sangue d'Arpignano che zitto zitto scorre in vano. Un destino umano a me detti su mano. Io sono il mio bagaglio a mano, missionario musulmano, eschimese africano, San Francesco pure no, Dalai Lama New Yorkese, un prosecco San Giovese, Padre Pio, Harry Potter e anche Dio, ma sono solo io. Hello, pronto? Sì, mi dica. No, volevo dirle che se dovessimo spiegare in pochissime parole le lezioni di Nirvana con si ricorda il famoso Buddha in fila indiana? Ecco, basterebbe solamente dire sempre e ancora che è solo una follia, eternamente ora. No, grazie, non mi interessa. Io sono il mio bagaglio a mano, missionario musulmano, eschimese africano, San Francesco pure no, Dalai Lama.